Scrivo perché ora forse l'unica cosa che mi sento di fare. Scrivo perché ora forse è l'ora di smettere di sognare. Scrivo perché è l'unico sollievo che trovo in questa notte priva di stelle. Scrivo per colmare l'inesperienza che mi pesa sulle spalle. Sono il solito coglione, mi lasci ingannare da una parola dolce o da un gesto singolare. Questo mondo non è fatto per persone come me, che perdono la testa persino per una come te. Penso di essere destinato a vagare in eterno, penso di essere destinato a morire d'inverno. Una mattina di dicembre mentre lieve neve cade da questo triste cielo grigio senza vecchie serenate. Cercare di capirti è sempre un'impresa, cercare di scordarti è una battaglia persa. La cosa che mi resta è scagliare questa penna contro un muro di pensieri che mi intasa la testa. È la prima volta che lascio Milano di malavoglia, è la prima volta che mi sento precario come una foglia dalla quale non dipende il suo prossimo futuro. Appesa a un ramo aspetta di schiantarsi contro il muro, contro il muro di pensieri che mi intasa la testa. Sembra strano, ma fino a ieri non mi passava per la testa di piazzarmi sul divano con la mia chitarra in mano, suonando piano piano qualche pezzo per te. Sono il solito coglione, mi lascio ingannare da una parola dolce o da un gesto singolare. Questo mondo non è fatto per persone come me, che perdono la testa persino per una come te. Penso di essere destinato a vagare in eterno, penso di essere destinato a morire d'inverno. Una mattina di dicembre mentre lieve neve cade da questo triste cielo grigio senza vecchie serenate.